Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno, benvenuti, vi stavamo aspettando, potete accomodarvi, si apre Questa casa non è un albergo, state ben comodi, oggi affronteremo insieme un tema che immagino scatenerà diverse reazioni, ma qua a fianco a me ho Alberto Pellai, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E noi siamo pronti, vero? Noi siamo pronti, abbiamo una puntata davvero speciale, una puntata dove le emozioni sono protagonisti, la affronteremo proprio con uno speciale paio di occhiali. Allora, non voglio che tu vada oltre, che tu anticipi, perché ci facciamo introdurre al tema di oggi da una lettera scritta da un papà. Sentiamo. Andrea, ragazzo mio, buono e sensibile, così generoso e così fragile insieme. Volevo dirti che ti voglio bene. Non ricordo più quando è stata l'ultima volta, ma sono certo delle prossime. Domani e poi domani e poi domani ancora. E così nel tempo fino a quando mi verrà concesso. È sera. Fuori tutto immobile. Da lontano arriva il fiato molle della città e io sono qui seduto e non riesco a frenare la spinta dei ricordi. Guardo le tue foto, da piccolo in braccio alla mamma, accanto a me, il tuo primo giorno di scuola, in sella al tuo scooter e sempre a dominare la scena, il tuo sorriso così solare, vivo, a volte un po' furbetto. Non so perché piango, scusami se puoi, ma sto proprio piangendo. Mio figlio è sereno, felice, vitale. Perché se lo amo non lo sono anch'io? Ti prego, non volermene, ma non ci riesco. Per una volta, figlio mio, non ho risposte. So soltanto che la verità è dolore e per me non ha previsto sconti. Lasciami il tempo, ti prego, di modificare me stesso e il mio modo d'essere. Tuttavia, fin da subito di una cosa puoi stare sicuro. Io e la mamma saremo sempre al tuo fianco per amarti e proteggerti ancora più di prima affinché le scelte che hai fatto e farai non ci siano di peso così eccessivo in un mondo così plumbeo e volgare. Ma se dovessimo essere per te delle ingombranti presenze, ci faremo da parte e ti osserveremo da lontano, ancora con più amore. Ti stringo fortissimo al mio petto, il tuo papà. Alberto, per i nostri ascoltatori fedeli qualcosa sembrerà cambiato, perché di solito la lettera di pensieri di padre viene letta dal nostro speaker, invece una voce nuova per introdurci in un tema che abbiamo già affrontato una volta ma che oggi affrontiamo con un taglio diverso, perché è una lettera originale che... È la voce di un figlio, è la voce di Andrea, la voce... di un ragazzo che ha ricevuto questa lettera dal suo papà e la legge in un film molto bello uscito da poco, si chiama Due volte genitori, sarà un po' il filo rosso della nostra trasmissione di oggi. Abbiamo con noi in studio il regista Claudio Cipelletti, a cui chiediamo di raccontarci cos'è Due volte genitori e com'è nato. Innanzitutto benvenuto, buongiorno. Grazie. Io faccio un po' gli onori di casa. Risentire la voce di Andrea emoziona sempre anche me, ma come tutte le voci di questo film, che è stato un lunghissimo percorso a contatto con con genitori accomunati da un particolare aspetto del loro rapporto coi figli, cioè il coming out del figlio o della figlia come gay o come lesbica. Questo tema portato dentro la famiglia è ancora un grosso tabù, cioè sì. Sembra che, non so, gli omosessuali nascono sotto i cavoli, però nessuno si pone mai il problema di che cosa succede ai loro genitori. Dal punto di vista dei figli, io ho fatto questo lavoro come figlio in qualche modo e ho capito cosa vuol dire essere genitore, essendolo. Intanto assumersi la responsabilità di seguire una creatura che si stacca da loro e che non è più come loro l'hanno pensata e programmata, diciamo spontaneamente, come naturale che sia, però non seguirà mai le orme, qualunque sia l'argomento in questione, fino in fondo. E quando, diciamo, l'aspettativa viene rotta su un tema così importante come l'orientamento sessuale, i genitori non sono preparati, anche oggi. Quindi si sentono come traditi dai figli. Quindi essere genitore, due volte genitori, anzi, come ho intitolato il lavoro, significa rimettere al mondo un figlio e lasciarlo andare. che sembra dargli un nuovo paio di ali. Alberto, tu spesso hai utilizzato questa frase per dire che i genitori devono, no, il ruolo di una famiglia, da una radici, parte radici, ma allo stesso tempo devono dare un paio di ali, seguendo quello che ci raccontava Claudio, un doppio paio di ali. Esatto, e non è facile dare questo doppio paio di ali, come testimoniano in modo molto intenso i genitori che parlano nel suo film Due volte genitori. Noi abbiamo deciso in questa trasmissione di rirappresentare una coppia genitore figlio anche con i nostri ospiti che abbiamo al telefono. Abbiamo infatti Ettore Ciano. Buongiorno Ettore. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto. Che è un papà di un figlio gay e tra l'altro è proprio un papà di quelli che hanno partecipato al film diretto da Claudio. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ma come figlio, perché gli ospiti non sono ancora terminati, sempre in linea con noi abbiamo Stefano Bolognini. Ciao. Buongiorno, Stefano. Buongiorno. Buongiorno, autore di Una famiglia normale. Stefano, io ti do del tu, puoi dire rapidamente anche il sottotitolo? Di questo sì, libro? Abbiamo disinnescato la bomba gay, è il sottotitolo del mio libro. Io vi leggo solo un breve incipit. Prendendola da parte, Stefano disse alla madre: credo mi piacciono gli uomini. Lei, in piedi, si appoggiò al muro. Ecco, di questo parleremo, dei silenzi, di queste notizie, del vacillare di genitori di fronte a questa notizia. Stefano, io entrerei subito un po' nel tuo libro e nella tua storia. È molto curioso che sia Claudio che io abbiamo lavorato in due ambiti diversi, lui con un film, io con un libro, proprio su ciò che accade quando una famiglia è investita dal virus, lo metterei tra virgolette, virus dell'omosessualità. In quel caso quello che hai riportato è proprio l'inizio del mio coming out, quando ho preso da parte mia madre e le ho lasciato il beneficio del dubbio. Questo credo di essere omosessuale voleva essere una dichiarazione un attimo più leggera, più gradevole, più comprensibile per lei. Io ero assolutamente sicuro di quello che ero, ma ero anche convinto del fatto che con i mezzi che aveva culturali non poteva capire fino in fondo la portata di quella dichiarazione, e quindi ho cercato anche di stare molto vicino ai miei sin dall'inizio per cercare di far capire loro le novità che si muovevano in seno a quella famiglia. Ecco. Senti Stefano, quanti anni avevi? Avevo 19 anni. Avevi 19 anni. Ettore, invece, cos'è successo nella sua famiglia? Quando suo figlio le ha dato... A 17 anni mio figlio venne in cucina, eravamo io e mia moglie, e ha detto appunto la classica frase: babbo, mamma, sono gay. E mi ha incuriosita la situazione di Stefano, che è piuttosto frequente. Cioè il papà è l'ultimo della catena. Sì. Sembra di sapere, sì. Che viene a sapere questa cosa. Diciamo che nel 90% dei casi credo che sia così, anche per esperienza Gedo. Credo che questo sia un buon indice della situazione. Cioè il condizionamento sociale, i pregiudizi che ci sono nella società e che i figli percepiscono sulla propria pelle. Per questo li spinge a dichiararsi con la mamma e poi magari se in seconda battuta e con molta più fatica al papà. Questa casa non è un albergo. Ecco, ci siamo tornati nuovamente insieme ai nostri ospiti di oggi, con cui affrontiamo il tema dell'omosessualità, quando un ragazzo o una ragazza dichiarano la loro omosessualità ai familiari, e cerchiamo di vedere un po' le dinamiche, le paure che nella famiglia nascono e maturano. Tra l'altro un tema che non vuole essere solamente dedicato ai genitori in ascolto che hanno un figlio omosessuale, Alberto, no, perché andiamo verso la genitorialità sociale. Esatto, no? Ed era molto, molto interessante leggere sia nel libro di Stefano che vedere nel film diretto da Claudio che un aspetto fondamentale dopo che un genitore ha ricevuto questa testimonianza dal proprio figlio è che si innesca una rete di comunicazione tra adulti. Ci sono mamme che vorrebbero parlare con le amiche, con altre mamme, con altri papà, e la reazione che la comunità tutta riesce in qualche modo a portare nell'esperienza di vita di un genitore che ha appena avuto il coming out dal proprio figlio è di nuovo molto molto importante in un processo proprio di, direi, normalizzazione, ed è una parola che non dovremmo usare. A Claudio, a questo proposito, prendendo spunto da quello che diceva anche papà Ettore, vorrei chiedere, avendo visto così tanti genitori nella realizzazione del film, ci sono modalità tipiche delle mamme e dei papà di reagire al coming out del proprio figlio? Ci sono similitudini e differenze? E poi magari cosa succede quando è un figlio maschio a raccontarti la sua esperienza personale, o quando invece è una figlia femmina a fare il coming out? Ma io sono, diciamo, contrario alle classificazioni che sono, rischiano di entrare nelle generalizzazioni, però è vero che siamo in una società a suo modo matriarcale per quanto riguarda la gestione dei figli, che il padre viene in secondo piano, che il padre si preoccupa di più degli aspetti di relazione sociale, cioè avrai una vita più difficile, stai attento perché io ti posso anche accettare, ma all'esterno, cioè si preoccupano più di quello che potrebbe essere la reazione sociale, mentre la madre ha un coinvolgimento di tipo empatico, quindi subito si chiede se ha fatto qualcosa di sbagliato, si sente, si colpevolizza, quindi ha una reazione di tipo più affettivo col figlio, ma in tutti e due i casi questo in genere non porta subito alla capacità dei genitori di reagire, come dicevi, in modo, diciamo, di cercarsi una rete sociale di appoggio. In prima istanza porta a nascondersi per un po'. C'è la fase del non ci credo, sto a vedere. Nego, cerco di guarirti, o comunque non te lo dico, ma dentro di me penso che sarà una cosa passeggera, e comunque non oso sicuramente dirlo agli amici, ai parenti, eccetera, eccetera, perché è come se me ne assumessi un po' la colpa. E la cosa più interessante che io ho scoperto lavorando a questo film è intanto la grande fragilità di questi genitori, che sono vittime un po' dello stesso stigma che colpisce i figli, non sono a loro volta degli non oppressori. Non ti senti forse neanche pronto per aiutare tuo figlio, non hai gli strumenti, non hai dei modelli magari a cui riferirti, no? Per niente, ecco, quindi la difficoltà di questi genitori a trovare la via per parlarne, per avere il supporto e la solidarietà di altri, cosa che spesso richiede molto tempo. Quando si sblocca qualche cosa e fanno il passo, ecco, io amo dire che non si tratta di accettare il figlio, ma si tratta di fare loro il proprio cambiamento di se stessi, il proprio coming out come genitori. Quando loro osano dichiararsi genitori di omosessuali, beh, è fatta. A quel punto rinascono come genitori. Stefano parlava di virus, quando il virus dell'omosessualità entra, proprio perché, insomma, produce delle modificazioni non solo nel ragazzo, ma anche nei suoi genitori. Dopo che tua mamma si è appoggiata al muro, quando è stata lì un attimo ferma, in bilico se svenire oppure parlare, cos'è successo, Stefano? Quanto dice Claudio, nel senso che esattamente lei l'ha vissuta come una bastonata e mi racconterà 10 anni dopo nel libro, appunto, che si è chiesta immediatamente in che cosa aveva sbagliato, se non era stato troppo vicino, c'era stato un periodo nel quale aveva un lavoro per cui per 3 anni non mi seguiva molto e così. Quindi colpevolizzata immediatamente, e poi si è rivolta a mio padre, cosa che io le avevo chiesto di non fare, perché per me lo scoglio più difficile era proprio un padre molto chiuso, così rivelare la mia omosessualità sarebbe stato per me impossibile all'epoca. Mia madre disse: siamo una famiglia, abbiamo sempre condiviso tutto, e mi fece outing, in poche parole. Mia madre oggi è, se vogliamo, addirittura una madre orgogliosa di un figlio omosessuale. Ha fatto quel passo che fanno tanti genitori, perché non ci sono soluzioni alternative. Adesso, a distanza di tempo, anche vivendo la tua omosessualità, sapendo un po' come questa notizia è stata vissuta da tua mamma e poi dai tuoi genitori come coppia, lo diresti in modo diverso, con toni, parole? Aspetteresti? Lo diresti subito? Se dovessi indietro al ragazzo di 19 anni che dice: mamma, forse sono omosessuale, che parole useresti oggi? Le stesse, però quando si decide ci si pensa a lungo, nel senso, c'è anche una testimonianza nel mio libro del mio compagno che pensava a qual è il termine più giusto, se gay o omosessuale, dice lui, mi sembrava un termine più dolce. I miei mi hanno insegnato, come credo tutti i genitori, a non dire balle, e quindi ecco, proprio viene da dentro, a quel punto le parole si trovano, ecco. C'è chi lo fa con lettere, c'è chi lo racconta ai genitori lasciando un libro, piuttosto che può essere anche un film, insomma si lasciano delle tracce, si cerca anche in qualche insomma, modo si prepara un po' la strada. Alberto, tu che lavori spesso con i papà, avete affrontato in tante riunioni che tu fai, c'è da parte dei papà che incontri un po' questo timore, forse, perché per alcuni è un timore che un domani il figlio possa confessargli la sua omosessualità, così poi andiamo da Ettore, da papà. Ma Ettore, direi che nel mondo dei papà questo è proprio uno di quei pensieri impensabili, per cui è come se un papà fosse preprogrammato ad essere certo e sicuro che a suo figlio non succederà mai. E molte volte, parlando con i papà, la domanda che faccio spesso è: ma voi come, che vivete questo come un pericolo tremendo per la vostra vita familiare, ma come fate ad essere sicuri e certi che vostro figlio non lo sarà mai? Quali sono le garanzie che potete avere? E l'altro aspetto che invece ritengo molto importante è comunicare a un papà che tanto più si radica in questa convinzione, tanto più questa diventa quasi un pensiero ossessivo, tanto più un figlio si trova in difficoltà, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale. La fatica è proprio quella di sentire di avere di fronte un papà che non è disposto a dialogare di una serie di cose su cui ogni figlio intorno ai 13-14 anni ha bisogno di parlare con il proprio padre. Ma sentiamo Ettore come è andato, ha dovuto trasformarsi come uomo e come padre di fronte al coming out del proprio figlio, oppure in qualche modo il percorso è stato lineare? No, assolutamente. Assolutamente. Cioè è stato ben evidenziato sia da Claudio che da Alberto che la questione è eccezionale, cioè non è prevista. Nella stragrande maggioranza delle persone arriva come un fulmine a ciel sereno l'omosessualità, il coming out del figlio. Non è un qualcosa che il genitore e soprattutto il padre, come è stato messo in evidenza poc'anzi, che il padre possa aspettare fosse gay mio figlio. No, normalmente è un eterosessuale il figlio, normalmente. Non viene presentato a nessun livello. Cioè non viene trasmesso il messaggio che il figlio potrebbe essere, e se viene trasmesso l'eventualità viene trasmessa in termini negativi con tutti i pregiudizi sociali che certo. Ci sono. Quindi tu lo rinneghi, non ci pensi proprio, dici no, mio figlio va bene così. Ecco, ma quando Ettore, suo figlio, ha detto, tra l'altro in un modo un po' particolare, perché eravate tutte e due genitori, lui è arrivato in cucina, ha detto mamma, papà, invece ad esempio dai racconti di Stefano e anche di Claudio, di solito lo si dice prima alla mamma, anzi Stefano aveva detto per favore non dirlo a papà. Ecco, lei, qual è stata la sua prima reazione? Mia moglie si è messa a piangere, e io sono rimasto basito, letteralmente basito. C'è voluto, là si è parlato di 15 anni per arrivare all'accettazione definitiva, per noi altrettanti, 12 anni per arrivare all'accettazione del figlio così com'è e così come può essere funzionale alla famiglia. Ettore, mi dica una cosa, mi dica la verità, lei non ha mai cercato di in qualche modo di convincere suo figlio che si stava sbagliando, che non era così, che magari era solo un momento, magari la delusione di una storia d'amore oppure un momento di fragilità? Non gli ha mai mandato dei messaggi che, oppure ha detto esplicitamente delle cose per fargli in qualche modo cambiare idea o ricredere? Noi, come molti genitori coinvolti in questa esperienza, abbiamo speso fior di milioni a mandarli dallo psichiatra, dallo psicologo, l'ha seguito per anni, di cui tra l'altro non sapevamo niente, perché uno psicologo poi non parla con la famiglia, e solo dopo molti anni abbiamo riallacciato il discorso, il dialogo con i nostri figli. Quindi abbiamo tentato in tutti i modi. Quindi Claudio, anche nel tuo film, insomma, veramente è un secondo parto questo. È un secondo parto, e come tutti i parti è un po' faticoso, ma poi dà tanta gioia, se vogliamo metterla così. Devo dire che il film è un po' una parabola sulla genitorialità alla fine, non è parte dal discorso del coming out, ma riguarda un percorso di tutti i genitori, ed è un po' un viaggio, è un viaggio che per molti, come dice Ettore, dura veramente tanti anni, però per chi l'ha voluto affrontare è un viaggio di autenticità, e questo è molto importante all'interno di una famiglia. Eppure ci sono ancora tanti ragazzi che nascondono la loro omosessualità, nonostante tutto. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme al tema di oggi, dichiarare la propria omosessualità in famiglia, i cambiamenti, le paure, le difficoltà. Ma prima di continuare ad ascoltare i nostri ospiti, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Da ragazzo a papà. Stai per diventare padre, tutte le situazioni che dovrai affrontare. Se volete ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore a inviare una mail a esserebenessere@radio24.it con titolo del libro, recapiti e numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Cosa succede nel mondo di una famiglia in cui il figlio racconta di essere omosessuale? Ascoltiamo di nuovo un breve estratto dal film di Claudio Cipelletti, Due volte genitori, questa volta è una mamma che parla. Sono arrivata a casa, ho detto devo fare qualche cosa, cercare perché trovo che mia figlia Anna ha una sofferenza che ho cercato esplicitamente quella sera e c'era una scatola in cui ho aperto questa lettera ed era una lettera d'amore di una donna. Claudio, non so, da mamma, da donna, si parla molto spesso dell'omosessualità maschile e poco di quello femminile. Vero. No? Anche magari mamme dicono, ma mio figlio è così gentile, delicato, sensibile, non sarà mica gay, non sarà mica omosessuale. Non ricevo la stessa cosa, no? Non sento mamme che dicono, ma mia figlia è così maschiaccio. Però questo naturalmente io non ho sotto mano il panorama che invece hai tu, e quindi, però mi sembra che ci sia più il timore dell'omosessuale maschio, certo, piuttosto di quello dell'omosessuale femmina. Ma ecco, questo perché diciamo culturalmente l'omofobia è sempre passata dal maschilismo e va a braccetto, diciamo, con l'immagine della donna messa in secondo piano, cioè le due cose vanno a braccetto nello stesso sistema. Quindi diciamo che l'uomo che perde la sua virilità è stigmatizzato, anche a prescindere dall'omosessualità. La donna un po' decisa è una donna un po' decisa. Poi quando supera però certi livelli, noi per esempio vediamo una mamma nel mio film che è veramente preoccupata dall'eccessiva mascolinità della figlia, perché questa cosa viene stigmatizzata a scuola, infatti, anche dagli insegnanti. Però mascolino, dire una ragazza mascolina non ha la stessa peso di dire un ragazzo effeminato. Guarda, non hanno neanche i termini, vero? Cioè non sanno neanche come definirla, cioè dicono a qualcosa che non va, eccetera, mentre il maschio è un finocchio. Stefano, ho bisogno del tuo aiuto. Nel libro in cui vai proprio dentro alla tua famiglia, ma qual è la persona che più ti ha aiutato? Sì, allora, che ti è sembrata più pronta? Genitori, madri e padri sempre, però io ho posto un altro problema, cioè l'omosessualità è una questione di famiglia, se consideriamo la famiglia la base della società, di tutta la famiglia, quindi mi sono rivolto anche a mia zia, mia nonna, mio fratello, perché parliamo poco spesso dei fratelli, cioè anche per loro è un cambiare il proprio ruolo di fratelli piuttosto che di nonni e così via. Io sono andato in tutti i gradi di parentela a cercare di capire che cosa succedesse con la scoperta della mia omosessualità. L'intervista che più mi ha stupito sono quelle delle giovani generazioni, nel senso che si nota un salto. La mia domanda finale, io sono in coppia da 10 anni e la mia coppia è accettata all'interno della mia famiglia, che tutti conoscono il mio compagno, e io sono accettato all'interno della sua famiglia, ci frequentiamo i Natali, insomma, così, proprio una famiglia normale, come dice il titolo. Quella che mi ha più stupito sono le giovani generazioni, mio cugino e la sua compagna, che sono una coppia di fatto, e mio fratello la sua compagna, che sono una coppia di fatto. La mia domanda era: quando guardate a me e il mio compagno, voi vedete una famiglia? Mia madre non è riuscita a dire di sì, mio padre dice di no, mia nonna dice di no e mia zia dice di no. Mio fratello dice: io sono una coppia di fatto, noi siamo una famiglia come voi. questa vicinanza, questo cambiamento di percezione che non leggo sui giornali quando si parla ancora di famiglia, penso che invece sia più diffusa a livello sociale, quando chiaramente è stato fatto un cammino di coming out e così via. E quindi ecco, mi sono sentito veramente a casa, in famiglia, ecco, di fronte a una dichiarazione di quel tipo. Non lo sapevo, non ne avevamo parlato mai così chiaramente, così direttamente. Mio fratello conosceva il mio compagno, sapeva che sono omosessuale chiaramente da molti anni, ma difeso con qualche suo amico che gli è andato a chiedere: ma quello è uno di quelli lì, è un Finocchio tuo fratello, così. Stefano, tu hai sollevato secondo me un aspetto importante, cioè un fratello cambia. Un fratello che ti dichiara la sua omosessualità ti rende un fratello diverso e ti costringe, gioco forza, a giocare un ruolo diverso, Alberto. Sì, devi assolutamente proprio reinventarti. Credo che questo è un aspetto che emerge benissimo sia dal libro di Stefano che dal documentario di Claudio, cioè quando un figlio dichiara la propria identità, il proprio orientamento sessuale, automaticamente tu devi cominciare a ripensarti come un nuovo padre, una nuova mamma, un nuovo fratello. Devi proprio ricreare anche un'immagine nuova di te di fianco a quel fratello che non avevi mai capito realmente chi era. A questo proposito chiederei a Ettore se può concretamente dare ai nostri genitori all'ascolto qualche consiglio dal dentro della sua famiglia e soprattutto del suo lungo percorso, cioè se qualche famiglia ha una sfida educativa come questa in gioco in questo momento con i propri figli, quali sono le cose più importanti da fare e quelle assolutamente da non fare? Non chiudere innanzitutto la comunicazione con i figli. Quello che ti porta ad allungare i termini, i tempi proprio di accettazione in un modo incredibile. Io ripeto, ci ho messo 10 anni prima di poter riabbracciare mio figlio con convinzione, cioè di aver ritrovato mio figlio. E voler bene è la base di tutta questa operazione, perché se ci si chiude e ci si allontana, forse alcune famiglie non riannodano proprio il contatto con i figli. E niente, poi cercare di proiettarsi verso persone che sono coinvolte nella stessa esperienza. Cioè, mettersi in collegamento con associazioni, con persone che hanno, con cui poter dialogare, perché uno dei problemi iniziali è quello del nascondimento. Sì. Se la famiglia si chiude a riccio, come avete messo in evidenza, si chiude a riccio, tenta di risolvere il problema tra virgolette all'interno della propria famiglia, non ha strumenti assolutamente, perché nessuno gliel'ha fornito, non l'hanno messo, contro natura, non considerata come possibilità, quindi niente, non lo so, insomma, è affrontare una situazione senza avere nessuna possibilità, molto spesso neanche strumenti culturali, per il semplice motivo che non si sa che cosa andare a leggere, che cosa vedere. Ultimamente c'è una produzione anche di sussidi didattici, di cose che permettono alle famiglie poi di cominciare a guardare e vedere, insomma, anche queste eventualità. Io volevo chiedere a Claudio, dopo aver portato avanti questo lavoro, tra l'altro questo film viaggerà un po' per tutta Italia con delle tappe. Sì, sta cominciando a girare, c'è un piccolo MySpace che vi posso dire, sì, che è www.myspace.com/2VG, due scritto in numero, sta per due volte genitori. Dove si trovano gli appuntamenti che saranno delle film, serate pubbliche, quindi certo, a Milano, Torino, Ivrea, Firenze in novembre, e portatevi i fazzoletti perché è un filmone. Perché ti tocca posso, molto. Posso dirti proprio io che l'ho visto con mia moglie, effettivamente è davvero un film che fa fare un viaggio, un percorso a qualsiasi persona, uomo o donna, di qualsiasi orientamento sessuale. E posso solo dire il commento che abbiamo fatto alla fine, cioè è chiaro che c'è molto dolore nel doversi reinventare come genitori di un figlio che non sapevi esattamente che figlio era, ma contemporaneamente, vedendo tutto il film, alla fine ci siamo detti certo che è molto meglio diventare due volte genitori in questo modo che rimanere arroccati in un atteggiamento di negazione, di rifiuto, di rabbia o di parole non dette. Certo, e quando se ne esce è veramente una rinascita. Allora, Stefano, noi siamo in chiusura, dobbiamo salutarci. Vuoi, dal tuo libro Una famiglia normale, come abbiamo disinnescato la bomba gay, vuoi lanciare un'ultima considerazione? Sì, volevo lanciare un messaggio, nel senso che io ho una... cos'è famiglia? Alla fine di questo libro la famiglia è quella che accetta anche che di fronte a un ostacolo cerca delle soluzioni. Alberto, dobbiamo salutare e chiudere questa casa? Salutiamo? Va bene, vai, ci ritroviamo sabato prossimo, grazie ai nostri ospiti per il viaggio che ci hanno fatto fare. Allora, grazie ad Ettore, a Claudio e a Stefano, buona giornata, buon sabato, noi ci sentiamo il prossimo sabato per una nuova puntata di Questa Casa Non È Un Albergo. Intanto, buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.